sera nanni ne se ne s'aiuta. Tu sai a tu, tu sai a tu. A tu sto cuore in grado più di spietta. Farmene un po', farmene un po'. A tu lo fuoco cosa massa fuia. Te lascia sta, te lascia sta. E non ti corra pressa, non ti sfruia, sulla guardà, sulla guardà. Se vera Francia proci dalla Spagna, ehi vega te, ehi vega te. Tirato con li funa di tempate, c'è la savà, c'è la savà. Savà come lo viendo all'indra sapte, vuoi saglia sa, vuoi saglia sa. Funicula, funicula, funicula.